insomma ci vediamo. Veramente, mi dispiace, ma io non posso aiutarti. Chiamo la Vodafone per cambiare la linea in internet. Ma cosa me ne affutti? Cioè io voglio risparmiare, chi mi guardi? Tutto a compreso, tipo di caglia, no? Tutto a compreso, 38 euro al mese per sempre, puoi chiamare telefonini, sono della Vodafone, puoi chiamare un telefonino a tua scelta, ma cosa mi interessa? Io voglio risparmiare, non è che te devo, cioè, più va più, no? Cosa me ne frega a me di chiamare telefonini da casa? Diciamo che una volta conviene, claro. Puoi chiamare Vodafone e ci puoi dare quanto ti pare e piace. Io guarda, c'ho la PIM esattamente 8 anni, era prima la bolletta e mi è stato convertito in una, non era un'offerta, una tariffa che se non fanno più famiglia, una cosa del genere. Posso chiamare a tutti, a qualsiasi telefonino, che sia PIM, che sia Omega, che sia Wind, qualsiasi telefonino compresi anche fissi, sempre con la stessa tariffa, senza chiamata alla risposta, ma che si dice, con pochissimi centesimi, quindi va bene così. Avanti doppio room. Vicino al pomellone. CLAR. Allora, lei ci avesse un pretensore di 5.000, io ce l'ho qua, la stessa funzione ce l'ho il 440 e anche il 430. Allora, il 440 c'è scritto CLAR. Allora, se quel pulsantino che cos'è? Ce l'è? C'è scritto CLAR e nell'altro c'è scritto R-LOCK. Prova a schiacciare quello mentre sta facendo la scansione, invece si blocca. Ma chi è? Il cazzo sta trovando, c'è un battimento, qualcuno in banda pompando. Cazzo, spendi, infatti penso che vedi tu la radio con il volume alto. Vedi un po', tira una scarrellata, guarda vedere chi è, quanti arriverà forte di segnale. Aspetta un secondo, devo lasciare un secondino, riprendo subito. Siamo in franco e poi scendi. A te che tipo spatterai, già lo sai chi sono. Boh, in banda, faccio un attenuare, sennò so portarvi appresso. Perché poi c'è scritto VFO, ho capito, trattino A. passetto. Fai la stessa cosa anche con quel dato. Devi provare tutti i consigli. C'è una funzione dove si deve resettare quella. Dentro tutti gli aperti si resetta con una funzione esterna. In verità non esiste una sovrania. No, non si ferma. cambiato frequenza. E comunque vicino a 28 e qualcosa, là, con le coordinate lì. 28, lascia vedere chi c'è, 28. 28, 550, mi fa. E io. Non c'è da niente, ma io provo il battimento qua, 27, 105. No, se c'è Salvatore, 28 ti fa battimento a te, Luca. Infatti. Sì, aspetta, ma c'è lui. Ma sono, si sente, qua. No, poi dico io. Si sente quando le riferì aperto. Lo sento solo a te, proprio quasi niente, non dà fastidio. Girato, ma coraggio, sentito Giampaolo stasera, non ho sentito nessuno. Guarda, io ci avevo praticamente le radio spente, perché stavo operando con questo e se non stai attento sbagli, ci dimentica per cavolo. Tu sei rientrato, ci avevo rientro, quindi sono rientrato alle 2:30, sono uscito alle 4 e sono rientrato alle 6. E alle 6 mi sono seduto qua e ho terminato quando ho fischiato, stavo provando, era entrato Massimiliano, capito? Poi io invece ho fatto una truccata di vacca, sono riuscito a fare il foro in moto, che mi sono dimenticato il borsello, sono dovuto andare a prendere, ho lasciato la scrivania dal cassetto, quindi sono sceso a prendermi il borsello, poi sono salito a Sassari con la moto e sono andato da Masa e l'ho lasciata per fare italiano. E mi sono fatto venire a prendere la linea, poi sono andato a casa e acceso non vedo nessuno. Facile strano, nemmeno Giampaolo mi rispondeva. Se ti attacca l'occhio, ti fa delle bombe, dove male, con un becco. non ascolti l'altra frequenza, quindi non ho capito cosa hai detto. Aia, aia, ci siamo distratti, non ho detto soltanto popolo per canale 14. Assolutamente niente, non parla di nessuna forma di quel genere. microfono e esce, hai capito? Salgono i fati, sale tutto, hai capito? E quindi, cioè, se l'oscillatore non dovrebbe neanche andare importante, credo. No, cioè, non lo so, magari ho detto una stupidaggine. Quindi li hai già fatte, non c'è bisogno, allora hai già fatto queste prove e allora che la semplicemente va sul banco e fargli una bella diagnosi, perché così, così può, le ipotesi potrebbero essere tantissime, cioè puoi fare 10.000 ipotesi, però l'unica cosa lì è metterla sul banco e fargli una bella diagnosi e capire un attimino che cosa potrebbe essere successo. Va bene, va bene. Potrebbe essere anche staccarne i finali, quelli nuovi che c'ha, e parcheggiarla dentro una vetrina, questa che ormai mi sa che il suo viaggio l'ha già fatto. Massimiliano, lo so, ne dovresti trovare un'altra di quel genere, che magari potresti recuperare quant'altro. Sull'oscillatore non sono d'accordo, perché ho parlato con Carlo, mi ha detto che lì la cosa che può aver mandato in dirti il frequentimetro deve stare camminando, la radio oscilla, se esce di modulazione, se sale di portante, non c'è mancia niente, cioè permettete, no, è così. Lì è andato il reset, la parte del VFO memoria, praticamente come ti ha detto Sandro, se tu vai a inserire un microfono che non è il suo, se molte volte, non so se ti è capitato a lui, a me mi è capitato, ti fa partire il frequentimetro, lo fa andare per i cacchi suoi, capito? Quindi lì, adesso, può essere andato a dirti il microfono, ok? Ti ha fatto partire la memoria del frequentimetro, lui sta sempre camminando, sino a quando tu non inserisci il microfono suo normale, e lo resetta di nuovo, non fa, è impossibile. Sì, ma Claudio, se ha fatto già l'operazione di resettaggio, sempre diciamo che sia quell'operazione lì di resettaggio, e il resettaggio non ha inciso, non ha reagito, evidentemente è altro. Il problema è che non riusciamo a resettarla, io ho chiamato anche Carlo, la funzione non se la ricorda, perché quella del gamebook è facilissima, spegni la radio e prende inserito A uguale B e si resetta da sola, capito? Lì invece no, ha provato A barra B perché A uguale B non ce l'ha, ha provato con il CREA, ha provato con il VFO memoria, ha provato con tutto, non lo so, ha provato anche con l'OC a spegnere e riaccenderla, c'è qualche altra funzione, non lo so. Tutte ipotesi, se non lo metti sotto un banco, sotto strumento, non potrai mai dire che cosa potrebbe essere anche una piccola forzata, capito? Però logicamente tutte ipotesi. Ma infatti sono tutte ipotesi che poi alla fine bisogna provare, però ci vuole veramente per farlo, non so. Mi dispiace perché stava andando veramente bene quella radio. Non so che dire. Dottor Rumi, ci sei? Ehi, vabbè, dai. Purtroppo c'è da aspettarselo. C'è da aspettarselo su questa radio, logicamente hanno i suoi anni. Hanno i suoi anni sulle spalle, quindi c'è da aspettarselo da un momento all'altro che possano succedere qualcosa, però secondo me la causa è derivata, diciamo, da questa alternata, da questo ronzio che è subentrato, ecco, capito? Va bene, e niente Massimiliano, è l'unica cosa, quella radio lì, metterla pure solo che qua da noi, chi la mette in mano? Capito? O ti giochi un attimino una spedizione, vedi un po'? No, non ne spendo altri soldi sopra questa radio, no, finché erano i finali, 50 euro non va bene, li ho sostituiti, la radio sta andando bene, però quello che mi dà più fastidio, sai cos'è? Che dopo che ho risolto questa alternata, cioè questa alternata si parla di prima di pranzo, cioè io dopo pranzo ho urlato con questa radio. spenta e dopo 5-10 minuti l'ho riaccesa e ha fatto questo problema qua, lì non è andata mai avanti giù, tutto lì. Se invece era stato il problema di questa alternata, io penso che il difetto l'avrebbe fatto subito. Ma non è detto, Massimiliano, non è detto che te lo potrebbe fare anche subito, scusami, non è detto. Niente di strano che fin quando è rimasto accesa è rimasto a tale in idea, che poi quando tu l'hai spenta e l'hai accesa, magari ha riconosciuto un problema alla radio, la memoria, che ha causato questo problema qua. Non lo so, le cause potrebbero essere tante, ripeto. Noi logicamente adesso possiamo fare 10.000 ipotesi, però siamo lì. Deciditi, perché sennò con la radio me la dai, me la metto qua un attimino, vediamo un attimino, la rimettiamo in sesto. Brecco. Vabbè, sì, registrare. Sa, io questa radio, se vuoi, te la do e le dai uno sguardo. Io, ti ripeto, io non le comprendo nulla di queste radio, quindi non saprei manco dove infilarci le mani, non le conosco. Cioè, se chi mi dice un'ora e 48, devo sollevarle i vati, mi devo registrare la radio, me la devo aprire di, cosa ti posso dire, di ricezione, me la devo aprire in trasmissione, quello lo so fare perché so dove andare, capito, lo conosco a memoria. Ma su questa radio io non vi comprendo nulla, cioè nel senso che dentro l'ho vista come è fatta, non saprei dove mettersi le mani. Avanti il break. Ciao, da questa parte è Fabrizio. Fabrizio, ciao Sandro, ciao Massimiliano. Ascolta, mi serve un controllino. Per capire, dopo che ho studiato tutto perché non funzionava una cosa, era chiamato, ti sto dicendo che io questa radio o questo tipo di riparazione non l'ho mai fatta, tranquillo. E sono sicuro, no? Già me ne ricordo le cose, a me è imbecillito, già me ne ricordo. Questa roba io non l'ho mai toccata. E ti posso garantire che un relè messo, che non lo so chi l'ha messo, non lo so, però non ho capito, sicuramente è stato messo per... ho capito, no, perché non è voglia di seguirmi quello e tutto quanto per capire cos'è, però non l'ho fatto io. Ah, neanche io, fammi capire invece a me, cosa hanno messo praticamente, perché noi abbiamo solo cambiato la piastra e l'abbiamo chiusa, se ti ricordi a radio, non abbiamo toccato niente perché abbiamo messo la piastra nuova da una all'altra, e cosa hanno fatto, fammi capire, fammi capire anch'io, perché veramente mi passo le imbecille anch'io, cosa hanno fatto? Dalla parte della unit control hanno messo un relè che parte dall'interruttore piano di alimentazione e parte dall'interruttore del LC Power, quell'interruttore, ho capito perché, ma va bene, per carità, però adesso l'ho ricablato bene perché hanno messo di più, lasciamo perdere. E come l'hanno appoggiato con le colle si è corroso una pista, e quindi devo rifare. Ma per capire che cos'era ci ho dovuto mettere ho dovuto seguirmi tutto prima di capire, ovviamente. Dopo che ho fatto dei controlli ho trovato un'interruzione ed era proprio quella roba lì, ed era lì sotto quel relè, che qui l'avevo già smontato, tutto pulito, rimesso, ricablato con i fili come vanno messi e non come quelli che hanno messo. Non so, la verità funziona, quindi non sono stato lì a capire che tipo di riparazione è stata fatta, se no dovrei riseguirmi tutto, gli schemi, ma magari ci butto 3 ore per capire cosa hanno fatto, non me ne frega niente. Vabbè, comunque io non è lavoro mio perché non so manco di cosa avevano capito questa cosa dell'LC. Non so assolutamente niente di merito, io mi ricordo solo che c'era relè che commutava la parte della 27 che era interrotto e noi in garage da te non abbiamo fatto altro che togliere la piastra relè da una radio da un 140 e metterla lì, basta, chiusa e apposta, la radio ha funzionato perfettamente subito e non ha mai fatto più un difetto dal giorno che l'hai, che praticamente hai cambiato la piastra per intero senza niente, staccati i fili da una, attaccati nell'altra e finito. Di questo relè io non sapevo assolutamente niente, non ho capito chi l'ha fatto e non so perché è stato fatto. Vabbè, comunque è scelto benissimo, non ci sono problemi. Adesso abbiamo un problema con la radio Massimiliano che quando l'accende parte il VFO in automatico e non si ferma più, non si riesce a bloccarla. Un FT757, blu. Boh, ma poi sto vedere. Non lo so, vabbè, il parte che c'è 9, no vabbè, quella era la, cioè, parlavo della scheda filtri, che poi quella scheda filtri l'ho riparata e l'ho montata sull'altra radio, l'ho riassemblata e l'ho fatta funzionare, già me lo ricordo, quella che poi si aveva dato a cosa, aveva regalato a cosa. Il parte che sto facendo bene, dai, ascolta, un passaggio in banda laterale, perché ho fatto un passaggio in banda laterale in 40 metri e mi hanno dato degli ultimi, siccome l'ho quasi riallineata tutta, mi hanno fatto degli ultimi controlli, però ho toccato la corrente di bias e quindi volevo fare veloce un passaggio in banda laterale per vedere se andava bene. Hola, perfetto, vediamo. Che si mette così. Ora, vediamo un attimo, processo inserito tutto, aumentiamo il mic gain. Ok, dimmi un attimino come ti sembra ora. Come fa bene, non deve sembrare, ti rapporti, come lo porto io per la radio. Quindi per me è 5 perfette le radio, segnale non ce n'è, si è mai tagliato come sempre, è tutto a posto, per me è tutto a posto. Poi vedi un po' con gli altri, io vorrei lasciare che però te la c'era, signore, se coincide a dopo, altrimenti alle prossime idee. Buonasera per tutti, vedo Fabri per chi vuoi. Vabbè, io saluto tutti, faccio avanti Massimiliano. questo frequenzino, te già si fermerà più o più, dai. Avanti, Sandro. Ehi, capo, dai. Ok, ciao Fabrizio, ci sentiamo alle prossime. Alle prossime. Ok, buonasera Gianluca. Gianluca, stai ricevendo bene con quello malato? Sì, ciao Sandra, c'è a te, se non ti avevo sentito adesso, dai. Sì, sto ricevendo bene, ma chi però, a te o qualche altro? No, no, col tuo apparato. Perfetto, sì, sì, sto ricevendo benissimo. Ah, ho capito, no, no, perché ho visto che stavano facendo delle prove. Poi si è subentrato, diciamo, chiamando, facendo, va bene, comunque. Pensavo che, diciamo, non eri, o stavi cercando, diciamo, di col clarifer di centrare. Va bene, e Claudio, dai, buona carica con tutto le prossime, dai. E Claudio avrà già chiuso, va. Fabri, sai cosa mi è successo stasera? Allora, stamattina quando ho acceso questa radio, vabbè, l'ho fatto un po' scaldare, sono entrato così a modulare e mi davo un'alternata. Attenzione, il 757 con 908 mi ha dato un'alternata, quindi cosa ho fatto? Ho staccato il cavo dell'alimentazione, diciamo, del microfono, l'ho reinserito, l'alternata è andata via, ho modulato ancora per un'altra oretta, poi ho spento la radio, sono andato via a vedere mia figlia con un pomaruccio, dopo 10 minuti l'ho accesa e il frequenzimetro è impazzito, cioè da 27.105 sta sempre tornando indietro da solo e tutta la parte, diciamo, della memoria non vado a schiacciare pulsanti, non risponde ai comandi. E la prima cosa provo a resettarla. Ci ho provato a resettare, cioè ha due pulsantini dietro, nel retro dell'apparecchio, tu li schiacci contemporaneamente e devi staccare il cavo dell'alimentazione, poi questi due pulsanti li rimuovi, attacchi il cavo dell'alimentazione, vai a accendere la radio, frequenzimetro, adesso poi è arrivato a 5.000 già. Boh, non lo so, così non lo so, bisognerebbe vedere e cercare su internet il suo difetto strano. Boh, ascolta, ci sentiamo con calma che devo staccare, che fra un po' devo andare a lavorare e volevo terminare qua. Va bene, lascio, ok, ti lascio. Ciao Fabri, buona serata e buon lavoro. Ci vediamo alle prossime. Avanti Gianlu, buonasera. Ok, ciao Fabri, buona carica e buon trapasso per dopo. E niente, e non lo so, guarda Massimiliano, non ho ben conto anche io con due tazzini, adesso non so se ce ne vanno per resettare o che cosa. Oh, nel manuale c'è scritto così, tenere premuto, sganciare il cavo di alimentazione, riagganciarlo, mollare i due tazzini e accendere la radio, oppure ancora sta andando, non si è bloccato, ma non lo so cosa è successo. Va bene, dai. Io mi scaccio un attimo che è pronta la cena. Sandro, niente, dai, la metto dentro una busta, ti faccio avere il manuale in cartaceo perché il CD ce l'ha mio cognato, ma oggi non sono uscito, c'è mia figlia, non sta tanto bene. Poi ti darò anche, cosa ti serve, il cavo, il microfono, tutto ti serve. Ciao, sì. Manuale, allora ricordati manuale, cavo alimentazione, il mic, mi ha detto il mic suo normale, il mic suo normale, mi ha detto che ormai non ce l'hai più, io mic da abbinare su quello lì, mi sa che non ne ho, mi ha mic da abbinare su quello lì, non ne ho. Perché cambiano, sì, ci vuole anche il microfono, perché io per abbinare su quello non c'ho niente, capito? Non ho capito, io il microfono suo normale di questa c'è, quello palmare, hai capito? Lo spinotto a 8, bisogna rifarlo, diciamo, dai, sul mic normale, ma se vuoi ti do questo, no, non ce n'è problema, te lo metto tutto dentro la busta. Ma quello non vorrei, c'ho un mezzo sospetto su quel mic lì, o Massimiliano, perché se ti ha fatto quella roba sera, ben attratto, io ci sono già un bel po' in radio, stavo chiudendo già più di un'ora fa, ancora su quei rocchi. Dai, ci sentiamo più tardi, se coincide. Questa sta andando bene, già luci. Perfetto. Perfettissimo, tranquillo, tranquillo, va benissimo. Oia, lascia vedere cosa dia, pure me, no, non è fatto, non me la metto mai più nulla, io metto, ok, va bene, ma cosa dia, pure me, ah, ecco cos'era, grazie della cosa della TV, niente, va benissimo, dai, buona carica, perché stanno a pranzo, la cena, si dà, stanno da cena, dai, allora mi piace anch'io, 10 minuti. Ciao Sandro, dai, ci sentiamo magari domani mattina se sei in queste coordinate, va. Ci sentiamo, ciao, buonanotte, ciao, buonanotte, saluti, vabbè. Buona serata, buona carica, se non l'avete fatta io mi stacco, ciao ciao. Ciao ciao, ciao, ciao. No, dai, ok. Ciao Massimiliano, anche io sto spaccando, ma l'ho chiamata la carica, dai. Ciao, giorno, alle prossime. E la buona carica, dai. Sentiamo dopo caso formaggio. E te balla, e te balla. Quella, aspetta. Allora? Aspetta, ti sento male. Capito, mi senti? Aspetta, ti sento male, come se mai? Scusa, mi vado a tenere, non c'è quel processore. Vai da, oh. Invece è con la radio, ma non ti dia un culo però. Allora ci sono pesato subito, eh. Sì, il processore manca, ma infatti stiamo salvando il volume, ci trovo solo il volume basso. Vedi, non mi frega neanche a me, già me ne accorgo dai picchi di modulazione. Non stavo facendo le prove in modo laterale, quindi ho staccato il processore perché è troppo forte, capito? No, ma io me ne sono accorto subito perché lo lascio sempre lo stesso volume, no? Però chi si diuva sul segnale era la bocca, ci sono forse che la radio in proporzione al segnale era così, insomma, c'era così differenza. Dopo invece è fatto subito, dai, va benissimo. Sono stati mettati cura. Non purtroppo molte volte uno neanche affezionato si trova bene, perché funzionano bene, solo magari se lo fa una stupida che non si trova più e tocca prima una radio che si vale tanto oro. Ma infatti alle 4.30 è superiore alle 4.40 anche, quindi non ci sono problemi. Per quello me la sono messa a posto, mi dava un po' fastidio usarla solo in modo laterale, perché è perfetta anche in modo laterale, è centratissima, ha una bellissima modulazione. E quindi mi dava un po' fastidio. E allora mi sono ricordato che questo mio amico aveva questo 4.30 vecchio e gliel'ho portato via. No, beh, finali sono bruciati, comunque, non me ne frega niente. Ok, va bene, non c'è nessuno. Dai, io sono di caffè adesso, vabbè. Stavo così, controllando un po' il computer, passando un po' di tempo e la radio accesa. Niente, non senti parte, saranno che si fa ancora per uno di cenare. Per il ma la sua entrata in qui. Allucinante, 10, 20, 15, tutto pieno, e vabbè, adesso se calma questo vento, non piove, che non piove, ma anche se è tempo brutto, l'importante è che non piove, non ci sia vento, sabato e domenica sono a riposo, sabato mattina se fa una giornata, ne salgo su, e mi completo queste benedette direttive, così iniziamo a farle girare, a fare qualche collegamento, che sono fermo da un po' di tempo. Adesso ancora, questa settimana, no, aspetta, rinvia perché ho visto le previsioni, che ci sono 20, 20 e forse anche pioggia, tutta la settimana. Certo, per un che la via che aveva detto il primo tempo. Vabbè, Giorgio, tempo suo, è il tempo suo, bisogna aspettare ancora, cosa ci vuoi fare, purtroppo è così. Che costa di questo gioco? 25 gradi di ginocchi. No, io per dirti faccio una magliettina sotto, va bene, una felpa di cucina di tutta, però c'ho come. Fai tutta, oh, c'ho come magliette, boh, 25 gradi, ci sono 1,2 qua in questa stanza, facciamo le varie, vabbè, tutta la gira, tutta fece anche, e quindi ha accumulato un bel po' di caldo, poi ancora c'è. Il riscaldamento acceso è 10:30, c'è il timer, si stacca da solo. Ah, riscaldamento, no, oggi non l'abbiamo acceso, si stava benissimo qua. Ma abbiamo il forno acceso, mia mamma era per Nicola, ha preso il forno, ha fatto... Guarda, tutta la gatta è calda. No, ma che... Forno micidiale. E anche qua oggi... Hanno usato il forno, quindi ha incubato sicuramente, no? C'è un caldo qua dentro allucinante. Ora si sta bene, perché non l'abbiamo accesso, la figlia, il scaldamento l'abbiamo accesso. È tutto. Perché veramente oggi era proprio la prima vite, benissimo. Erano 16 gradi, 15 gradi, sta via lei. Figlia sta bene. Quando... Quando sono giornate così, già si sta bene, c'è un po' di vento, però è sempre vento di terra, quindi non ci stanno problemi. Avanti, qualcuno che vuole bussare. Ma c'è zero di guarremme, manco male. Che c'era anch'io, proprio una sacca. E qua, su questa... Proprio appena sente un fruscio di QRM, veramente molto selettiva sta radio, segnale il tuo, uguale a quello del 440, va benissimo. Ah, il segnale è sempre lo stesso, quanta differenza? No, no, no, questa poi l'avevo fatta allineare da poco, e va molto bene. Aveva questo problemino che praticamente se ne è accorto Giampaolo, poi è andato a peggiorare, alla fine non, praticamente non oscillava proprio niente, non l'avevo fermata in AM, l'avevo messa in banda laterale che era perfetta, e oggi me la sono sistemata di nuovo, vedo che sta andando, la vento è anche entrata in funzione anche in AM. Che tre picchi allucinanti da 50 a 100. Va benissimo. Perché come segnali mio? Come ti segnali con quella sigla? No, no, più 6. Vuoi più, leggermente? Sì, 9 più 5, insomma. 9 è abbondante. Ho voglia. E già un po' non si è sentito oggi. Io mi sono svegliato abbastanza tardi qua, perché sono arretrato, diciamo così arretrato, ma stamattina svegliandomi sempre più presto del solito, naturalmente alle 3 in piedi, terra, figurati. E io mi sono fermo presto, sto timbrando a sorso, sto timbrando a 7, fino a Gigia di De. Mi alzo alle 7:15 per prepararmi tutto. Riesco verso le 6:30, un caffè veloce lì vicino all'autoparco che apre presto, e poi alle 7 sono a Sorso. Dove sei adesso lì? Un tempo di Sorso, al consortile di Sorso, signori. Ah, ecco, capito. Non è depuratore, va bene. Il depuratore consortile è abbastanza grande. Abbastanza grande. E anche impegnativo soprattutto perché sono venuti degli spagnoli e stanno piazzando tutti i PLC e quindi sto seguendo tutte le cose, ma spero che domani finiscano, ma venerdì così sabato e domenica non sto a casa, non può farmi i battimenti, se no mi sciocumo la lecce. Vabbè, ho da attaccare. Riposo è importante quanto il lavoro. Riposo ci vuole. Ci vuole. perché prima non sai tracci di mano seguendo le cose, facendo, non vanno ancora tutte le relazioni. Quindi, pian pianino vai, mi piace va avanti, non c'è problema. Vai Gianluca, dai, io mi allontano la radio, sono stanco molto, fa male lì, che ho tragedia attaccata alla radio. Ma sono finito, mi sono messo anche tutto a posto, pulito tutto. Me ne vado a avere un po' di TV dentro e poi me ne vado a nanna, sono già dei 3 mesi. Ci sentiamo domani Gianlu, stammi bene, buon fine serata, ragazzi. Aspetta tra un secondo, mica mi sono ricordato adesso. Vai, devo sentire sul microfono, Claudio. Quale? Praticamente la modulazione un po' cupa, ragazzi, però non era bello. questo qua, dai. Ho capito, dai, qual è. Sì, vabbè, ma ha avuto sempre problemi con Mikey lì. Era proprio dall'interno. Proprio dall'interno. E insomma, quando cominciano a essere roba vecchia, roba portabile, inutile, dai. Allora io un po' sul possibile che ce l'ho. 2, 3, 4 anni e mezzo. Non mi ha mai fatto un problema. Comprato seminuovo in fiera, l'avevo preso dentro la scatola di un mercatino all'usato, l'ho trovato nella fiera di Milano. Non mi ha mai fatto nessun problema. Ma ha preso la ricerca, ti sei bruciato la capsa. Altro che dopo con questo qua mi sposto un attimino di cosa e faccio le prove, se no faccio casino. Beh, non la capo sulla, deve essere stata qualche cosettina tipo nel ho falso contatto mi e non mi funzionava più. Dopo ho provato questa e mi è scappa, non c'era cosa di levare questo fisco, questo innesco. Dopo invece ho trovato questa mazza, le ho messo questa capo e se ne va, però è un po' cupo. Il mio schicchiaforte col baracchino va molto bene, ma l'ho provato anche con questa varia qua, con questo, non ricordo se l'ho provato a 140, mi tappa da... della mutua, vanno portate la mutua, cara amico, ti scrivo. Cioè, non ce l'hai la radio seria? Gianni. E da Massimine. Beia, ciao. Ci sentiamo, sa. Oh, dinami, ma tu che fai, camionista? Ciao, Sandro, buonanotte. Con la scritta da parte grande dinamite. lo stesso schermo della, del computer, non lo stavo come sono verso di me. Verso Sassari, allora diciamo la zona dove abita Sandro, il satellite non dista tanto da me a lui, capito? Saranno, non penso che ci sia neanche un chilometro, forse 600, 700 metri, però è leggermente in salita, io sono leggermente in discesa. Poco c'è di dislivello, capito? Poco dovrebbe essere. Grandi pretese, capito? Anche perché da dove sono posizionato io parlo più o meno con tutti, quindi non è un problema per me, antenna grande, antenna piccola. Tu da dove stai modulando? Vicino a Chiaramonti, ho capito, e sto arrivando un controllo di segnale. 74 potrebbe essere. Ecco, c'ha 40 anni, è quasi. No, no, sempre a 12, 23 canali, questo è un Seat, con AM e bande laterali. LSD e USB, 34 canali a manopolo a scatti, con i numeri nella ruota, quindi non c'è neanche il display che sono i numeri, quindi c'è una pallina che si illumina, un LED, una pallinetta che illumina il numero mentre gira il canale, c'è il controllo del SVR, che quello è molto fondamentale, e quando modulo lo switcher, sia che i picchi magari di modulazione della lancetta, ma anche a una lucetta simultanea che lampeggia in base alla modulazione, capito? Diventa più parlo, più alto la voce, più ne diventa più rossa intensa. Bravissimo, ma è bello grande, eh? Ha le dimensioni, non so se c'è presente un Galaxy Pluto, come il quadrante, diciamo così, di mascherina, forse anche qualche cosettina leggermente più grande, ma è profondo, è lungo, è una bella bestia, cioè a lungo in mano, intendi che è macchinario dentro. Cos'è, c'è il tiro o il frontale? No, no, è metà nero e metà grigio satinato. Lo smitter addirittura invece di averla al centro oppure in alto a sinistra, questo qui ce l'ha in basso a destra, figurati, in basso a destra. Ciao già, ti intendiamo alla prossima, ciao ciao, alle prossimine, ciao, buonanotte. Ci vediamo alla torre, già. Antifiltro, vediamo un po'. Va bene, d'accordo, a domani. Ciao ciao.